tue impronte, cerco tracce dei tuoi pensieri. Un deserto ci divide, ma non tremo più. La proiezione di un bambino con la sua dote di paure, ma il calore dei tuoi baci lo tengo ancora qui con me. Tu come uscita da un bel sogno, tu che ascolti la voce del mio cuore, non smetter mai di illuminare l'incerto proceder del mio cammino. Lo sai bene, son nato libero, forse il mio destino è di esser solo, ma quando l'anima vola alta, perché mai dovremmo scegliere il vuoto? Seguo le tue impronte, cerco tracce dei tuoi pensieri. Un deserto ci divide, ma non tremo più. Tu come uscita da un bel sogno, tu che ascolti la voce del mio cuore, non smetter mai di illuminare l'incerto proceder del mio cammino. Lo sai bene, son nato libero, forse il mio destino è di esser solo, ma quando l'anima vola alta, perché mai dovremmo scegliere il vuoto?